volesse fare il fin, volesse al padre vedermi l'odio, eccomi l'odio, avesse desiderio di guerra, eccoci in guerra, ordite che provate di più. M'accusi a torto, tu mi togliesti il sale, la legge di tacer. Io non t'offendo se vendette desio, ma ne intanto contro me congiurate. Ditemi che mi feci, quali le ingrate,